Caraibe e fu in un posto che fa schifo. Mary gioca con la gente. Quando guarda nei tuoi occhi, quando scopre il tuo sorriso, capisce che sono un uomo solo. Non parla mai d'amore, non regala una carezza, ma ride come fosse sempre festa. Si struscia il tuo vestito, ti lancia qualche bacio, come tutti ne avevano parlato. Scappa dai tuoi sogni, non vuole la tua vita. Mary è una donna travestita, ma questo è il suo lavoro ed io sono un cretino. Spendere soldi per parlare a un tavolino, per cercare di capire ogni momento che si vive, per levarsi dalla testa alcuni dubbi. Senza sentimenti, seduto su un divano, a guardare un ballo a larga mano. Finto borghese, perso in un diamante, come farebbe un bravo commerciante. Senza una parola, da solo ad aspettare, come lacrime lasciate ad asciugare. Si struscia il tuo vestito, ti lancia qualche bacio.